E com'è la via della Fogna? La via che la vivi, la scrivi, la TV ogni giorno dei bivi. La via che la vivi, la scrivi, la TV ogni giorno dei bivi. Il buono e il cattivo, ci sono i più, vai vai. Aspetto, scempio su sto sample, faccio schietto. Shampoo contro impurità, lo scalpo è bello e fatto. Quieto, poco, ho pensato a quanto ciò che è detto spesso è sciocco. Il significato è stato rimandato a dopo. Lo scopo è uccidervi nell'animo. So qual è il difficile, son ciò che i fatti esamino. Con liriche contamino, ma cosa mi nascondono? Babiloni al mondo ma non contano. Ideali minimi di uomini esanimi. Cani che qui vivono per mordere altri canimi. Insani B, cavalco nella notte sgamami. Adibiti al suono che percuote validi. Argomenti carichi, di buoni spunti scarichi. La tensione sodichi, vuole zitti questi giovani. Ma come riesco un chip? È impercettibile. Drogali, poi fanno un manifesto dell'inconcepibile. Insanabile, scovali, quelli più deboli ed annullali. Fingono ad aiutarli invece uccidonli. Trucidanli, senza lasciar tracce orribili di sangue. Pensa, controllano dall'alto come funge. La demenza giunge ad un livello di indecenza. Fatti scienza nell'essenza di impotenza. Impotenza, impotenza, impotenza. Porta la scienza a questa gente, non quella dei libri. La conoscenza vale più che secoli di castighi. Sopra sti suoni esigui, tutto è molto chiaro, arte esprimi. La pura conoscenza e non sparar cazzate vivi. La sola vita che esiste è quella del reale. Se vuoi viaggiare, fallo col cervello ma non ti distrarre. Vivi, vivi, vivi, vivi, vivi. Porta la scienza a questa gente, non quella dei libri. La conoscenza vale più che secoli di castighi. Sopra sti suoni esigui, tutto è molto chiaro, arte esprimi. La pura conoscenza e non sparar cazzate vivi. La sola vita che esiste è quella del reale. Se vuoi viaggiare, fallo col cervello ma non ti distrarre. Vivi, vivi, vivi, vivi, vivi, vivi. La via che la vivi, la scrivi, la TV ogni giorno dai bivi. Il buono e i cattivi, ci sono i più vari casini. La vivi, vivila, la vita la vivi. Gli schiavi li vedi, li eviti, tu valuta i vivi. Devi dei lividi a chi divide queste genti qui. Se dividi vividi vividi sentimenti liquidi. Insipidi, zividi, didici. Zividi in mugumani manzano ma precisimi. Non c'ha mai in due attimi, anda piano e cagami. Zividi in mugulloci gulloci rispondimi. A chi se no lagami, vai dinni oi. Pigliazi, viagazzino guru. Tanti ghi sull'ogu non ti puoi fidà di nessuno. Porta la scienza a questa gente, non quella dei libri. La conoscenza vale più che se tu li castighi. Sopra sti suoni esigui, tutto è molto chiaro, arte esprimi. La pura conoscenza e non sparar cazzate vivi. La sola vita che esiste è quella del reale. Se vuoi viaggiare, fallo col cervello ma non ti distrarre. Vivi, vivi.